Novità per le imprese e i professionisti. Speciale Telefisco. In collaborazione con Vodafone. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of, that's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ancora una volta a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che si occupa di cucina, di migrazione, di identità. E stasera andiamo ai piedi delle Alpi, in due piccoli comuni in Piemonte, a Barge e Bagnolo, e vi facciamo sentire le suggestioni tratte da un documentario, A Bitter Story, che è stato anche presentato al Festival del Cinema di Torino e di cui parleremo tra pochissimo con i protagonisti. Quello che avete ascoltato è un estratto di A Bitter Story, un documentario d'esordio, e abbiamo con noi la regista Francesca Bono in collegamento dal Cile. Francesca, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per aver chiamato. Abbiamo anche lo sceneggiatore Fabio Ferrero e una delle persone che ha dato origine, che ha aiutato queste due persone italiane a introdursi nella comunità cinese, e che è Zach, e poi li saluteremo, li avremo con noi. Perché questo è un film, sì, è ambientato, come dicevamo, nei piccoli comuni limitrofi di Barge e Bagnolo ai piedi delle Alpi in Piemonte, ma parla di una comunità cinese che vive proprio in questa zona, poco fuori di Torino, ed è una comunità giovanile, il 60% circa degli adolescenti della zona sono cinesi, con famiglie che nel corso degli anni si sono riunite, radicate nel territorio, attirate dal grande lavoro nel campo della lavorazione di pietre nelle cave. Francesca, come sei arrivata ad occuparti di questo tema, ad appassionarti a questo documentario che racconta appunto la comunità cinese di quella zona? Io e Fabio, lo sceneggiatore, abbiamo avuto occasione di incontrare questa realtà lavorando con il consorzio Monviso Solidale, che è un consorzio che fa attività nelle scuole, attività di peer education, quindi noi siamo entrati in contatto con questa realtà all'interno delle scuole, dove ci siamo resi conto che appunto questi adolescenti cinesi erano tantissimi. Ho iniziato a cercare di capire come vivevano la loro realtà quotidiana, più che altro, perché sebbene i loro genitori fossero arrivati per lavorare, questi ragazzi arrivano dopo ricongiungimenti familiari che durano anni, arrivano quindi adolescenti a ad occupare uno spazio in un posto che è quello di paesi di provincia, e quindi mi interessava questo spaesamento che si crea in un adolescente all'interno di una comunità nuova e di una comunità come quella di un piccolo paese di provincia. Quindi questo è stato il mio desiderio, quindi capire come loro vivevano la loro vita quotidiana. Non parliamo di una comunità piccola, sia chiaro, è la seconda comunità cinese più numerosa d'Europa in rapporto agli abitanti locali. Su questa comunità in realtà non si è mai acceso un faro, credo sia la prima volta che se ne parla. Come mai sono così nascosti? Credo che non siano così tanto nascosti. In realtà è una comunità che per tradizione, per cultura proprio, vive molto internamente, quindi essendo molti, vivono la loro quotidianità tra di loro. Quindi chiusi più che nascosti? Sì, forse chiusi o semplicemente davvero sono paesi piccoli di montagna, quindi non c'è tanta occasione per aprirsi anche. Noi abbiamo avuto un periodo di avvicinamento abbastanza lungo per poter iniziare a fare le riprese, tutte queste cose che sono invasive nella realtà di chiunque. Però nel momento in cui abbiamo iniziato a conoscerli, in realtà poi siamo riusciti a entrare in casa loro, sono persone che ci hanno raccontato tanto anche, quindi non sono sicura che siano così chiusi come siamo abituati a pensarli. La prossima volta verrete a cena da noi, sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà, e Floranza ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, la sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo: I mesi della prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno allora dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datemi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro. Fabio Ferrero, sceneggiatore di questo documentario, film, come mai questo titolo, A Bitter Story, una storia amara quindi? Intanto buonasera a tutti. Dunque, A Bitter Story, una storia amara, CQ in cinese, Zach qui con me conferma che la dizione è giusta, perché c'è una uno spazio, un divario dal nostro punto di vista incolmabile tra la realtà che i ragazzi vivono in costante conflitto e tensione con le tradizioni, le culture d'origine, la cultura rappresentata dai padri, e quello che invece è il luogo che li ospita e nel quale vivono in termini di costumi e di abitudini, e quindi in qualche modo una grande domanda che aleggia sulle loro esistenze rispetto alla possibilità o meno di riuscire a colmare questa distanza che, insomma, è evidente, credo, sotto gli occhi di tutti. Mi sembra che il vostro focus più che sulla comunità appunto cinese sia proprio sui ragazzi, sugli adolescenti, e l'amarezza sta anche nel fatto che ad esempio la scuola non viene valutata positivamente dai genitori di questi ragazzi. Questa è una cosa abbastanza sorprendente. Ma di fatto fa sempre parte di quel contesto a cui ho accennato prima. C'è un'esigenza anche culturale, diciamo, molto semplice, cioè che i ragazzi, quando raggiungono la maggiore età, sono abituati a lavorare, e in un contesto in cui anche i genitori faticano e compiono in qualche modo degli sforzi rispetto forse a quella che sarebbe la loro vita nel paese natio, anche questo senso di responsabilità poi investe anche i ragazzi che a loro volta si sentono in qualche modo obbligati, anche soltanto da un punto di vista pur morale, a seguire le orme dei padri e quindi iniziare a lavorare. Molti di loro seguono questa strada, dunque abbandonano la scuola. Alcuni di loro, come Zach, che invece ci ha aiutato, insomma, in questo percorso progettuale, invece decidono di superare, di tentare quantomeno di superare il problema, iscrivendosi all'università, cercando di coltivare le proprie ambizioni e allo stesso tempo però aiutare la famiglia da un punto di vista economico, e quindi, insomma, lavorare e contribuire all'economia familiare. Zach però è un'eccezione, di solito i ragazzi seguono la strada dei genitori, il lavoro. Sì, questo perché c'è la cosiddetta pietà filiale, cioè il senso di responsabilità dei figli che a un certo punto della loro vita si prendono in carico anche economicamente i genitori, che hanno in modo da restituire ciò che i genitori hanno fatto per loro nel primo periodo della vita. Francesca, c'è molta nebbia nel film documentario, ci sono queste scene che fanno proprio pensare al Piemonte, insomma, però in un certo senso fanno pensare anche alla Cina che vediamo nei telegiornali con lo smog. È un caso che ci sia tutta questa nebbia? È voluto, chiaramente. Io l'ho voluta, nel senso che per me quella nebbia rappresenta anche una situazione simbolica, questa situazione, questo limbo che si vive nell'adolescenza, che tutti gli adolescenti un po' vivono, e che questi adolescenti in particolare si trovano ad affrontare quotidianamente, questa nebbia del futuro, questa difficoltà di poter visualizzare più in là del proprio naso. Come è stato recepito questo film documentario in concorso al Torino Film Fest? È andato molto bene, e abbiamo ricevuto una menzione speciale appunto per questo sguardo che mi riconosco sensibile, nel senso che siamo riusciti a restituire con sensibilità questo spaccato di vita. Noi abbiamo cercato di essere molto rispettosi nei confronti di quello che questi ragazzi hanno deciso di raccontarci. Zach, buonasera innanzitutto. Buonasera. Benvenuto. Zach è un soprannome, no? Sì, me l'ha dato la professoressa di matematica alle superiori. Superiori, che sono state importanti per lei, perché quando parliamo di riscatto, nel suo caso è un riscatto che è passato attraverso la scuola. Lei per questo documentario ha aiutato lo sceneggiatore e la regista a entrare nella comunità. Come sono andate le cose innanzitutto? Lo sceneggiatore e il regista, per appunto, non sapevano la lingua cinese. E la maggior parte di questi ragazzi non parlavano l'italiano, quindi il primo aiuto è stato quello di far comunicare queste due parti. La traduzione è stata una piccola parte, il passo più grande che abbiamo fatto è quello dello scambio culturale. Lei è molto giovane, Zach, no? Quanti anni ha? Ho 21 anni. In qualche maniera è riuscito a spezzare la catena che lega tutti i genitori ai figli di quella zona e ha inseguito un suo sogno personale. Questo mio sogno sono riuscito a portarlo avanti anche grazie ai miei genitori, che per fortuna non sono molto, molto chiusi, sono molto aperti di mente, e a differenza degli altri genitori che in qualche modo cercano di tappare le ali, diciamo, ai giovani ragazzi di Barge e Bagnolo. Suo padre però è uno degli spaccapietre della zona. Qual è stata la vita dei suoi genitori e quando lei è arrivato in Italia? In principio in Italia c'era solo mio padre, era venuto per l'appunto a spaccare la pietra. E qualche anno dopo io, mia madre e mio fratello l'abbiamo raggiunto. Mia madre ha iniziato a fare lavori manuali in fabbrica. Dopo un po' mio padre la sera, dopo il lavoro di spaccapietre, tornava a casa e aiutava anche a fare questo lavoro. Quindi la vita dei suoi genitori è una vita di grande sacrificio. Sì, questo lo devo ammettere. Hanno faticato molto per portare io e mio fratello fino a qui. Quando lei è riuscito a venire in Italia a raggiungere i genitori? Avevo 6 anni. Per fortuna, diciamo, perché a quei tempi i cinesi che venivano qua in Italia non erano chissà quanti, non come adesso, non come oggi. Quindi la possibilità di comunicare con gli italiani aumentava. Lei ha imparato l'italiano e ha apprezzato la scuola, cosa che non sempre accade, mi pare di capire, per i ragazzi di quell'area di origine cinese. Sì, nelle scuole, oggi come oggi, i ragazzi cinesi di Barge Bagnolo stanno sempre in gruppi tra di loro. Quindi molto spesso parlano cinese, preferiscono parlare cinese a discapito dell'italiano. Questa è una delle ragioni più importanti per la quale i cinesi non sanno bene la lingua italiana. Fabio Ferrero, ci raccontava Zac di questa difficoltà a penetrare i segreti degli adolescenti della zona. In realtà i segreti degli adolescenti in generale penso siano difficili da penetrare, però questi sono comunità particolari in comuni, in zone italiane anche particolari. Immagino che anche se fossero stati italiani sarebbe stato difficile. L'aiuto di Zac, che oltre insomma ad aiutarci da un punto di vista linguistico, è stato un grande mediatore culturale, proprio perché lui aveva appena superato quella fase esistenziale e stava risolvendo il suo conflitto in termini positivi, ci ha sicuramente aiutato a trovare la giusta prospettiva attraverso cui proporci e i ragazzi questo l'hanno percepito, chi ha partecipato al percorso, che non è soltanto il documentario ma è un percorso di autonarrazione, uno spettacolo teatrale che è stato andato in scena più volte, e dunque insomma siamo riusciti a conquistare la fiducia e il rispetto, che insomma nella comunità cinese è molto molto importante. Questo ci ha permesso successivamente di agganciare alcuni genitori, non tutti ovviamente, anzi in verità molto pochi, che hanno accolto a loro volta la fiducia dei figli nei confronti del progetto e ci hanno consentito dunque di entrare nelle loro case e di raccontare e descrivere, seppur in modo parziale, alcuni aspetti del loro quotidiano. Fabio, ma come mai questa comunità cinese lavora, vive in questa zona? Cioè sono i classici lavori che gli italiani non vogliono più fare? Sì, nello specifico la manodopera cinese ha sostituito una tradizione sarda. Prima della comunità cinese era presente negli stessi territori una nutrita comunità di sardi che facevano lavoro. Poi, come hai tu sottolineato poc'anzi, spesso i figli si interrogano quantomeno sul lavoro dei padri e cercano altre alternative. Si è creato un vuoto produttivo, economico, che la comunità cinese ha contribuito a riempire ed è questo insomma in una dimensione macro l'aspetto interessante di quei luoghi.